Allora Riva è in espansione. Ci sono nuovi arrivi, nuove nascite. Anche ieri sera è nata una nuova rivese, si chiama Eva ed è nata all'ospedale maggiore di Chieri. Inviterei tutti quanti a fare un applauso, Eva. Magari non il prossimo anno, ma tra qualche anno sicuramente Eva sarà nella Proloco a dare una mano, perché la costringeremo di brutto, altrimenti sono botte da ordine.